Un libro tira l'altro, di Salvatore Carrubba. Buonasera cari amiche e cari amici, siamo alla vigilia di un importante appuntamento elettorale europeo, potrebbe essere decisivo, sono le elezioni tedesche che si svolgeranno domenica prossima. E allora fermiamoci a parlare un momento di questo paese tanto importante per tutta l'Europa e non soltanto, sul quale esce il libro di uno storico dell'Università di Trento, Gustavo Corni, che ha scritto Storia della Germania, da Bismarck a Merkel, è pubblicato al Saggiatore, 430 pagine, 29 euro. Questo libro nasce nel 1992-93, questo è il secondo aggiornamento reso necessario per il crescere dell'interesse nei confronti della Germania, un paese, scrive l'autore, temuto e ammirato al tempo stesso, la cui storia è scomoda e complessa. Ma vale la pena, aggiungo io, di essere conosciuto questo paese a tutti noi, perché così potremo capire meglio il ruolo che la Germania svolge e la natura del rapporto con il resto del mondo. Si parte dunque da Bismarck, ci si sofferma in particolare sulle vicende di un secolo fa, ossia la prima guerra mondiale, per affrontare poi la devastante esperienza nazista e poi il lungo periodo di stabilità e di ricostruzione della Germania distrutta dal nazismo prima e della Germania riunificata dopo, che culmina appunto negli ultimi anni nel lungo cancellierato della Merkel, sul quale questa edizione dedica una particolare attenzione. E adesso sentiamo l'autore. Buonasera a Gustavo Corni. Buonasera. Gustavo Corni, partiamo dalla fine del suo libro, cioè dalla Merkel. Lei scrive che sotto di lei, sotto la Merkel, la Germania è assurda sempre di più a decisore ultimo ed egemonico. Qual è stato quindi il ruolo e la caratteristica della leadership della Merkel in questi ultimi anni? Ma sicuramente perché lei è riuscita in questo lungo periodo di governo, che a quanto si può prevedere proseguirà ancora per i prossimi 5 anni, è riuscita a realizzare una politica in Germania molto comprensiva, molto coinvolgente, che le ha consentito per una certa fase di avere un governo insieme ai socialdemocratici, poi un governo con i liberali e poi di nuovo un governo con i socialdemocratici. Quindi ha avuto una capacità di rafforzare il sistema politico tedesco sotto la sua leadership, creando sostanzialmente un largo consenso, un larghissimo consenso nei partiti politici. Lo scontro elettorale, mentre io mi trovo in Germania e lo vivo in diretta, diciamo, lo scontro elettorale è uno scontro estremamente attenuato sul piano dei progetti, delle linee programmatiche, perché effettivamente tra SPD e CDU CSU, con qualche piccolissimo elemento di differenziazione, c'è una sostanziale concordanza. Questa concordanza è imperniata da un lato sulla problematizzazione di mantenere, rafforzare l'Unione Europea, allo stesso tempo anche di rafforzare e consolidare il ruolo non più solo economico, ma anche politico della Germania su scala internazionale. Addirittura lei scrive, parla di sostanziale sottomissione della Commissione europea ai voleri dei due stati politicamente più forti, Germania appunto e Francia. Quindi potrebbero aver ragione gli antieuropeisti che non sopportano la Merkel? Ma questo sinceramente non, gli antieuropeisti non è che non sopportino la Merkel, non sopportano l'Europa e l'europeismo, questa è un'altra questione. Poi ci sono certo anche dei riflessi condizionati, per esempio molto forti in Italia, ma anche nell'Europa centro-orientale, nei confronti di questo vicino così ingombrante, la cui storia si è incrociata nel Novecento con la storia italiana, la storia della Polonia o della Cecoslovacchia, dell'Ungheria, in un modo anche estremamente drammatico. Io credo che la sottomissione della Commissione europea sia anche un dato di fatto abbastanza chiaro. In questi giorni c'è una crisi di Air Berlin, che è una delle società che sta facendo parte della galassia Etihad, come all'Italia, e il governo tedesco ha tirato fuori qualche centinaio di milioni di euro per rafforzare e consolidare la situazione attuale molto difficile della società aerea, e nessuno ha battuto ciglio. Quando cose del genere le fa il governo italiano, lo sappiamo bene, la musica a Bruxelles suona in maniera molto diversa. Torniamo al periodo complessivo che lei considera, che ricordo va da Bismarck appunto alla Merkel. In questo lungo periodo si può riconoscere uno o più costanti della politica tedesca? Ma è un periodo appunto molto lungo, che è segnato da una grande trasformazione dello Stato unitario sotto l'egemonia della Prussia, che presenta caratteristiche molto simili all'unificazione del Regno d'Italia sotto l'egemonia dei Savoia, piemontese, fino ad una lunga fase dell'impero guglielmino che sfocia e si conclude nel disastro della Prima Guerra Mondiale, poi una democrazia difficile, molto assediata, la Repubblica di Weimar e il nazionalsocialismo, e dopo il 1945 una ricostruzione economica, politica, sociale e culturale apparentemente rapida e senza ostacoli. È un percorso storicamente molto lungo. Faccio davvero molta fatica a trovare delle linee di continuità davvero significative. Forse due elementi però sono importanti. Uno è costituito dalla collocazione geopolitica della Germania. La Germania è il paese di centro, è il paese che sta al centro del continente europeo, e da questo gioie e dolori per la Germania, gioie e dolori per i suoi vicini. In un primo lungo periodo è la Francia il vicino, diciamo, più problematico fino al 1914, ma poi anche di nuovo nel 39-40, e poi per un lungo periodo successivo è a Oriente, sono i vicini orientali e soprattutto l'Unione Sovietica, nel nazionalsocialismo che diciamo, si trovano a essere oggetto di mire tedesche, ma allo stesso tempo anche la Germania ha paura di questi. Cioè, c'è sempre un rapporto dialettico molto complesso tra il ruolo della Germania al centro del continente e i suoi vicini. La Germania li teme, ma i vicini temono la Germania, con fasi naturalmente molto diverse che raggiungono l'apice drammatico nel 39-45 con la guerra scatenata da Hitler. L'altro elemento di lunghissimo periodo che io trovo, mi sembra di trovare, ma ci sono tante discontinuità, insomma, che cerco anche di mettere in luce nel libro. L'altro elemento è forse questa via, diciamo, di cercare di costruire un sistema politico in Germania che contempli, che abbia una componente democratica al suo interno, ma che allo stesso tempo sia un sistema politico in grado di non farsi prendere la mano dalla democrazia, dalla partecipazione democratica dal basso. C'è un tentativo di temperare un governo forte con un governo democratico. Questo tentativo non a caso ha il suo trionfo con Bismarck e l'impero bismarchiano, ed è un tentativo che anche i teorici politici a livello internazionale proprio chiamarono una sorta di via tra le autocrazie e le democrazie, tra la Russia, diciamo così, zarista, e la Gran Bretagna o gli Stati Uniti, le democrazie occidentali. È un tentativo che trova momenti di forte oscillazione nel periodo della Repubblica di Weimar, naturalmente molto l'elemento democratico, nella dittatura di Hitler va da sé, invece il predominio assoluto della dittatura, dell'elemento dittatoriale, ma sempre cercando di temperare, di coinvolgere nel sistema politico la partecipazione. E questo forse è un elemento di continuità di lunghissimo periodo, seppure oggi, da 70 anni a questa parte, a mio parere, la Germania è una repubblica saldamente ancorata su principi democratici, dove non c'è alcun elemento di tipo bonapartistico, diciamo presente, di tipo autocratico, ma comunque mi sembra che questo possa essere un elemento di lunga continuità che può essere messo in luce. E venendo appunto a quest'ultimo periodo, quello della Repubblica Democratica degli ultimi 70 anni, lei dedica due capitoli a questo periodo e fotografa questo periodo con due coppie di termini: stabilità e benessere da un lato, crescita economica e conformismo politico dall'altro. Quali sono stati gli elementi più significativi? Il conformismo politico, in che cosa si è manifestato in questi ultimi decenni? Ecco, il conformismo politico tedesco è un'evoluzione sempre molto temperata, è un'evoluzione nella quale scontri, conflitti, tensioni certo non sono mancati, ma hanno sostanzialmente prevalso gli elementi unificanti, gli elementi di temperamento, gli elementi di composizione dei conflitti. Non è un caso che in molti periodi appunto della storia tedesca ci siano state le grandi coalizioni, dove i due grandi partiti si sono alleati, hanno governato insieme, talvolta sotto guida socialdemocratica, talaltra sotto guida dei cristiano democratici. Questo è assolutamente possibile, e lo vediamo molto bene nel caso italiano, non è mai avvenuto, e lo è anche nel caso francese, dove il sistema politico invece è, come dire, subisce dei fortissimi spostamenti, delle fortissime coagulazioni, ora da un lato, ora dall'altro. Abbiamo visto il caso Macron emergere, questo presidente praticamente dal nulla, e stravincere non solo le elezioni presidenziali ma anche le elezioni parlamentari con un partito che non esisteva fino a poche settimane o a pochi mesi prima. Quindi a me è rientra nel discorso che facevo prima, cioè questa terza via tedesca in cui la democrazia mette in primo piano non tanto il dibattito politico, lo scontro politico fra posizioni, fra programmi, ma mette invece in primo piano tentativi possibilmente unitari di affrontare i problemi. Anche quando si dovette discutere dell'unificazione della Germania, o nell'immediato, quando si iniziarono a capire, si iniziò a capire che questa unificazione dopo il 1990 non sarebbe stata gratis, sarebbe costata molti soldi, molti sacrifici, sia ai tedeschi dell'est che si univano alla Germania, ma sia anche ai pagatori delle tasse nella Repubblica Federale Occidentale. Beh, questo per esempio non è stato un elemento di scontro fortissimo, radicale all'interno del sistema politico. Proviamo a immaginarci solo vagamente cosa avrebbe potuto significare una questione così gigantesca in un sistema politico come quello italiano. Avrebbe portato a spaccature, a scontri, a confronti durissimi, all'arma bianca. Possiamo. Che non è più d'accordo nemmeno sull'unificazione nostra. Come dire, il mainstream ha continuato a governare il paese e ha portato il paese fuori da questa difficile temperie del periodo post-unificazione senza gravi scossoni. E questo a me sembra un elemento importante, non solo per la Germania, ma in qualche modo mi sembra un elemento importante anche per l'Europa di oggi e del domani. Grazie a Gustavo Corni, autore di Storia della Germania. Buona serata. Salve, buonasera. Uno dei padri della potenza tedesca fu Federico il Grande, il re di Prussia, che nacque nel 1712 e regnò fino alla morte nel 1786 dal 1740. Aveva avuto pessimi rapporti con il padre, che lo aveva fatto imprigionare e l'avrebbe mandato volentieri al patibolo, e fu una personalità complessa e controversa che esplora Alessandro Barbero nel libro Federico il Grande, appunto pubblicato da Sellerio, 218 pagine, 13 euro. Questa non è solo la biografia di un grande re, un re che addirittura in Germania al termine del suo regno chiamavano Federico l'Unico, ma è un'occasione, spiega l'autore, per riflettere su che cosa sia la grandezza, sul perché i popoli chiamano grande qualcuno dei loro capi, per esempio Alessandro Magno, Costantino il Grande, Carlo Magno, Pietro il Grande, Caterina la Grande. Che cos'è che fa la grandezza di questi personaggi? Un tratto comune a questi, spiega l'autore, è che sul piano umano, sul piano del carattere e anche su quello morale, quando impariamo a conoscerli un po' meglio, questi grandi spesso non ci fanno una buona impressione. Lo stesso Federico era sì molto affascinante, ma nel fondo, aggiunge Barbero, a giudicarlo dalle sue azioni, era un uomo cinico, sleale e ingrato. E allora dove sta la sua grandezza? Beh, ci spiega l'autore che la risposta ovviamente non ha a che fare con l'ambito della morale, è una risposta puramente storica. E mentre prima di lui la Germania era stata egemonizzata dagli Asburgo, egli lascia una Germania fondata dalla Prussia che avrebbe acquistato una sua autonomia, una sua indipendenza. Questo cambiamento di equilibri, spiega Barbero, è interamente dovuto a Federico il Grande. Un libro tira l'altro. Ben ritrovati con Salvatore Carruba. Parliamo adesso di due protagonisti della letteratura italiana, due grandi poeti, uno dell'Ottocento e uno del Novecento. E partiamo da quest'ultimo secolo e quindi da Umberto Saba, di cui in agosto è caduto il 60° anniversario della scomparsa. In questa occasione Salerno ha pubblicato di Stefano Carrai, che è un docente di letteratura italiana a Siena, Saba, 294 pagine, 18 euro. Sabbe, certamente uno dei maggiori poeti del Novecento, molto legato alla Trieste, dove era nato nel 1883, dove per anni, a partire dal 1919, aveva gestito una famosa libreria specializzata in testi antiquari, frequentata da molti intellettuali e che poi continuavano le loro chiacchiere al caffè Garibaldi. Intanto Sabbe aveva cominciato a pubblicare senza soverchio successo, che cominciò ad arridergli a partire dalla metà degli anni 20, e nel libro troviamo appunto la storia del poeta e un'analisi delle sue poesie, alle quali Sabbe affiancò anche delle prose e un romanzo, Ernesto. È un'opera nella quale Sabbe dimostrerà, a seconda dei periodi, interesse per temi insoliti come la psicanalisi o lo sport, anzi il calcio. Erano gli anni della Triestina, di cui Sabbe era grande tifoso, lo sport che diventa nei suoi versi una manifestazione quasi epica, come dimostra una celebre poesia del 1933-34, Gol. Il portiere caduto alla difesa, ultima vana, controterra cela la faccia, a non veder la mara luce. Il compagno in ginocchio che l'induce, con parole e con mano a rilevarsi, sempre pieni di lacrime i suoi occhi. La folla, unita e brizza, par trabocchi nel campo. Intorno al vincitore stanno, al suo collo, si gettano i fratelli. Pochi momenti come questo belli, a quanti l'odio consuma e l'amore è dato sotto il cielo di vedere. Presso la rete inviolata il portiere, l'altro è rimasto, ma non la sua anima con la persona vi è rimasta sola. La sua gioia si fa una capriola, si fa baci che manda di lontano. Della festa, egli dice, anch'io son parte. E il canzoniere di Sabbe, pubblicato da Einaudi, 17 euro. Mondadori ha pubblicato due meridiani con le poesie e le prose, 1232 pagine e 1530 pagine, ciascun volume costa 60 euro. L'altro grandissimo poeta è Giacomo Leopardi, di cui l'Indau pubblica un testo in prosa, il discorso sopra lo stato presente dei costumi degli italiani, curato da Alessandro Pertosa, 72 pagine, 10 euro. Questo di Leopardi è un testo breve, come avete sentito, anzi le pagine scritte dal poeta sono soltanto 42, ma è un testo ugualmente molto affascinante, perché il poeta di Recanati, che scrisse queste pagine a 26 anni nel 1824, coglie dei tratti che potremmo definire immutabili di noi italiani. Il testo era rimasto inedito per quasi un secolo, fu pubblicato infatti nel 1906 e pare gli fosse stato commissionato da una rivista, l'antologia di Giovan Pietro Vieusseux, che era espressione del mondo che il curatore definisce liberal moderato, progressista e riformatore. Ma se Leopardi aveva promesso un testo che potesse, sono parole sue, contribuire ai progressi dello spirito umano e della nazione, ben presto prevalsero i toni più pessimisti, riconducibili soprattutto alla mancanza denunciata da Leopardi del concetto di società, che per il poeta sopravvive quasi per caso, visto che gli italiani, scrive, continuamente si odiano e si insidiano e cercano in tutti i modi di nuocersi gli uni agli altri. Ma, aggiunge poi sconsolato, una società stretta non può durare tra uomini continuamente occupati a deridersi in faccia gli uni e gli altri e darsi continui segni di scambievole disprezzo. Chissà come avrebbe reagito se avesse assistito qualche talk show dei nostri giovani. Insomma, gli unici usi in Italia si riducono, scrive Leopardi, generalmente a questo, che ciascuno segua l'uso e il costume proprio, quel che gli sia. Molto modernamente Leopardi osserva come la salvezza può venire solo dalle città e, a differenza di quanto si pensava anche allora, che la provincia e il contado fossero o siano i depositari saldi di valori morali. E infatti così scrive Leopardi a questo proposito. Da tutte le cose considerate di sopra come cagioni della total mancanza o incertezza di buoni costumi in Italia e della mancanza eziandio di costumi propriamente italiani, segue un effetto reale che può parere un paradosso, cioè che va migliori o men cattivi costumi nelle capitali e città grandi d'Italia che nelle province e nelle città secondarie e piccole. La ragione si è che in quelle va un poco più di società, quindi un poco più di cura dell'opinione pubblica e un poco più di esistenza reale di questa opinione, quindi un poco più di studio e spirito di onore e gelosia della propria fama, un poco più di necessità e di cura di essere conforme agli altri, un poco più di costume e quindi di buono o men cattivo costume. Al contrario di quello che può sembrare verisimile, le città piccole e le province d'Italia sono di costumi e di principi assai peggiori e più sfrenati che le capitali e città grandi, che sembrerebbero dover essere le più corrotte e per tali sono sempre state considerate e si considerano generalmente anche oggi, ma a torto. Sempre la settimana scorsa abbiamo ricordato il bicentenario di una grandissima scrittrice inglese, Jane Austen, l'autrice di Orgoglio e Pregiudizio e un'autrice popolarissima in tutto il mondo, in particolare presso le lettrici. E 7 lettrici d'eccezione la ricordano nel libro Una verità universalmente riconosciuta, che è l'incipit famoso del suo capolavoro. Il libro si intitola Scrittrici per Jane Austen, è curato da Liliana Rampello, è pubblicato da Storia, 150 pagine, 14 euro, e le autrici sono Stefania Bertola, Ginevra Bompiani, Beatrice Masini, Rossella Milone, Bianca Pizzorno e Lidia Ravera. A ciascuna di queste autrici è stata, per così dire, affidata una pagina della Austen che fa da spunto, anzi, come scrive Rampello, da pretesto per scrivere un racconto libero da ogni altro vincolo, e quindi il racconto delle 7 autrici diventa un'idea austeniana rimessa al lavoro per parlarci del oggi. Restiamo nel campo della narrativa con uno scrittore contemporaneo e anche docente, si chiama Matteo Righetto e ha pubblicato L'anima della frontiera con Mondadori, 186 pagine, 18 euro. Anche qui abbiamo un'eroina, Iole, figlia di Augusto, che è un coltivatore di tabacco e contrabbandiere per necessità, si direbbe oggi. Siamo a Nevada, che non è uno stato americano, ma una sperduta località nell'alta Val Brenta, dove il romanzo è ambientato negli ultimi anni dell'Ottocento. I familiari sono gran lavoratori, gente sostanzialmente molto per bene, ma la fame si fa sentire e Augusto di quando in quando deve affrontare pericolose spedizioni per andare a vendere un po' di tabacco che ha messo da parte, lo vende agli austriaci al di là delle montagne. Un giorno non farà ritorno da una di queste sue spedizioni, alle quali aveva già cominciato ad associare la coraggiosa figlia, che sempre per disperazione, quando la famiglia rimane senza l'appoggio del padre, affronterà da sola il pericolo. Questa volta la spedizione però si rivelerà assai più pericolosa del previsto, ma sarà coronata da un finale sorprendente che cambierà la vita della famiglia. Ne esce un quadro non disperato, certo, ma severo di un pezzo di mondo antico, cementata dall'unione familiare e dal coraggio, oltre che dallo spirito di sopravvivenza che si manifesta in un ambiente remoto e tutt'altro che idilliaco, ma sempre affascinante, come dimostrano queste righe che annunciano i colori dell'autunno che arriva. Dei rumori inquietanti e i versi di alcuni animali li accompagnarono costantemente, quasi ad alloro il benvenuto in un regno precluso agli esseri umani. Mentre camminava, la Iole tremava un po' e pensava a quanto erano diversi i boschi dal giorno alla notte. Di notte tutti i boschi sono uguali e paurosi, si disse. Pensò alla foresta di latifoglie che stava attraversando, una foresta che conosceva bene e che tuttavia nell'oscurità le sembrava sconosciuta. Le vennero in mente le sfumature di inizio autunno che nelle ultime settimane avevano cambiato il colore del bosco, i rossi, i gialli e gli ocra, che se fosse stato mattino avrebbero brillato su aceri, castagni, faggi, betulle, roveri, ontani, carpini. E si immaginò i mille profumi che avrebbero emanato quegli alberi e gli infiniti e continui giochi di luce che il sole avrebbe riflesso filtrando dalle loro fronde. E a questo punto il confettino. Alle ragazze appassionate di moda ricordo che il 20 settembre iniziano le sfilate a Milano e segnalo per questo il libro Passione Moda di Till Stilton, pubblicato da PM, 128 pagine, 18,50 euro, che è una nuova avventura delle T-Sister che qui faranno accostare le ragazze al mondo della moda. Invece ai genitori appassionati di moda segnalo di uno storico di questa disciplina, Luciano Lappadula, il libro Il macabro e il grottesco nella moda e nel costume, pubblicato da Progedit, 204 pagine, 25 euro. È un libro ricco di illustrazioni che offre un'insolita lettura della storia della moda dalla rivoluzione francese a oggi, per farci cogliere i diversi significati che in questi due secoli e mezzo ha assunto la moda. Gli abiti, troviamo qui gli abiti più curiosi, magari oggi del tutto normali, che invece hanno avuto dei significati di rottura o dei significati molto diversi da quelli tradizionali. Dice infatti l'autore: gli indumenti caratterizzati da apparenze estreme rispetto a quelli connotati da sobrietà descrivono in maniera assai più incisiva emozioni e contingenze storiche. Un classico della moda, aggiunge, come un tubino nero, cessa di rivestire un ruolo innovativo e dirompente quando il comune senso del pudore interpreta quell'indumento come ordinario e generalizzato. E con questo ringrazio Guido Scotti, redazione, Michele Previato in regia. Vi ricordo il nostro indirizzo di posta elettronica, libro@radio24.it, e il nostro sito www.radio24.it, dove potete sempre ascoltare queste e tutte le altre nostre trasmissioni. Vi auguro buona serata e vi do appuntamento a domenica prossima.